faccia come quella di Martins dei Melvin. Come quello che ci avevo visto al concerto di Vasco. Ho venduto il booster perché era andato a posto. Ho venduto pure gli amici a un periodo che facevo schifo, lo so. Mi piaceva l'alcol. Faceva tutto quanto quello che mi faceva uscire da Milano. Poi arriva lui, mi porta nella stanza, mi trovo pieno di troppo e non capisci più. Siede a un caffè, ti ordina una bottiglia di tè, tu gliela servi, ti stacchi, cominciando dalla giacca. Lei non capisce e ti ride in faccia. Che brutta avventura. Mi ricordo, non ce la facevo cazzo. Eravamo all'idroscalo a fare il bagno fuori dalla scuola. Era il periodo che allagarono il Parini. Me lo ricordo ancora, sembra eravamo bambini. E invece no, adesso 30 anni e non lo so più. Boom. sondaggio che tra l'altro governa una coalizione di centrodestra. Che scelto. Scelto il pantalone risvoltato. Di che scelto il pantalone risvoltato? Qual è? Scarpa giusta sotto. Oh, non cammino se non c'è un mucchetto sotto i miei piedi. Non cammino più se non c'è tappetino sotto il mio scarpo. Sotto mio piede mocket, il mio piede mocket, mi ha chiesto mocket, mi ha chiesto mocket, gli dissi: cara signora, ce ne sono di tre modelli. C'è il modello solito, arancione, bello, carino, fa luce, è bello, costa poco. È il modello di mocchetta arancione, con cucitura grossa, ma in realtà la cucitura, diciamoci la verità, in realtà questa cucitura, diciamoci la verità, in realtà questa cucitura, diciamoci la verità, insomma questa cazzo di cosa, questa cucitura cos'è questa cucitura, scusa, cos'è? Compri scusa, cioè mi vai a cercare la moquette quella giusta, con la cucitura giusta, quell'arancione come piace a te, che riflette come piace a te. Piano. Jovanotti qui. Figliolo, prova il phon, ti farà conoscere. Vabbè, la solita esperienza. Hey, ciu. Puffy, sei gay. Puffy, you're fine. China, Chinatown, Polos. Ti puoi conciare così e venire l'ora che cazzo vuoi? Cosa fai? Mi chiami di domenica alle 5? Eh? Mi svegli? Che cazzo vuoi? Se ti vuoi sfasciare, sfasciati pure. A me non ne frega un cazzo. Non sono il posto dove vai a dormire. Io non dormo. Io non dormo. Io non dormo. Io non dormo. Io non dormo. Thank you. Cos'è successo? Bambini, ci siamo appena svegliati. Possiamo fare colazione? Questo è il panino. Poi hai chiesto una Coca-Cola. Poi ci dirigeremo a Gardaland. Nel mentre che voi fate la merenda al sacco, noi ci dirigeremo a Gardaland. Non esiste. Gargalat. Guarda picco. Ma che è arrivato a figlio di Fantozzi? Porco Dio. Magari è arrivato carabinieri. Ah. Ah. Ro. Ah. Ro. Sì, sì, sì. Ah. Ro. Trovai Iapino. La mostra non mi piace. Scusa, sì. No, zero proprio, non mi piace. Oltre scusa, no, forse quelle robe lì sì. Oltre al letto di crudo? Sì, a parte le solite. Ma oltre al letto di crudo? Sì, a parte le solite robe. Vatta due chili di pazzo. Lei viene qua e chiede. Vatta due chili di pazzo. Bravissima, spiega. Insomma, ci crediamo tutti. Adesso lo chiudiamo in giro e vediamo quanti si coprono 92 kg di manzo fresco dal Pao. C'è chi avanza, manzo dal Pao. Io vivo in un mixer. Oh, c'è chi avanza. Zoccola casalizia. Ma uno scaglio. Eccoci la ve. Il mixer fa brutto. Se usi il mixer, vivi in un mixer. Figlio di mixer, spegni mixer. Spegni mixer. Piacere mixer. Oh, no.